Capitolo 15. Domanda di matrimonio. Settembre 1949. Che ne diresti se me ne andassi a mettere a posto le mie cose e ritornassi a sposarti? Mi chiese Mark 3 giorni dopo, mentre se ne stava tranquillamente seduto sul mio lettuccio da campo all'ospedale. Come potrei sposarti e andare ugualmente in Cina? Anch'io voglio ritornare in Cina e al più presto, non appena il governo nazionalista avrà finito di sgretolarsi. Molti miei colleghi sembrano credere che i nazionalisti riusciranno a tenere il Sud, ma io non lo ritengo possibile. Allora dovremo stabilire relazioni col nuovo governo. Il commercio non può fermarsi per sempre e tutti gli uomini di affari qua giù sono favorevoli a una ripresa degli scambi commerciali. Io andrò a Pechino per il mio giornale, l'unico posto in cui desidero veramente andare. Le sue parole mi turbarono. Tutto sembrava così facile. Naturalmente dovremo superare qualche difficoltà, poiché non è mai facile convincere gli altri ad accettare una situazione nuova, ma non sono stato un marito molto soddisfacente e penso che riuscirò a spuntarla. È per colpa mia che hai preso nuove decisioni, dissi, e ciò mi dispiace molto. Non è per causa tua. Sì, forse tu hai agito da catalizzatore, tramutando in bisogno definito l'irrequietezza latente che esisteva in me, ma questo è tutto. Sono stato vuoto per tanto tempo e ora tu sei entrata in me. Lo fissai a lungo. Devo pensarci. È impossibile che tutto si risolva così facilmente. Non so perché, ma non riesco a convincermi di poter essere tua moglie e lavorare in Cina. Inoltre, non devi dimenticare che non sono inglese, che non potrò mai avere sentimenti europei. Forse non sarò una moglie soddisfacente, potrei anche rovinarti la carriera. Oh, non lo credo affatto. Sarò orgoglioso di farti conoscere i miei amici. Sai che mi piace tanto farmi vedere con te e voglio che tu rimanga come sei ora. Vuoi mostrarmi ai tuoi amici come un prezioso ninnolo cinese, vero? Mi ribellai, profondamente offesa. Mark sorrise. So benissimo, cara, che per te sono soltanto un giornalista straniero. Voi cinesi soffrite di un complesso di superiorità peggiore del nostro. Sì, mi piace metterti in mostra. Non mi rimaneva molto da dire. Ma se credi veramente che sia possibile lavorare insieme in Cina, ebbene, ti sposerò. Allora comincerò a darmi da fare. Non c'è bisogno che tu mi prometta nulla. E nemmeno tu. Non voglio promesse fra noi. Perché tu potresti cambiare idea e non voglio assolutamente che ti senta obbligato a mantenere una promessa. Già, potrebbe darsi, ammise Mark, ma in un tono che faceva capire quanto lo ritenesse impossibile. Non devi mai far nulla per risparmiarmi. Odio la bontà, è un vizio terribile, come il sacrificio di se stessi. Crea troppi obblighi. Ti prego, caro Mark, non essere buono con me. Sta bene? Ma dimmi. Sapevi prima ancora che parlassi che ti avrei chiesto di sposarmi? Ci penso da tempo, sai, esattamente dal giorno in cui quel cucciolo ci attraversò la strada sulla praia e tu rimanesti tanto calma. Certo che lo sapevo, risposi brevemente cercando di soffocare la tenerezza che mi serrava la gola. Non era difficile da indovinare, voi inglesi siete addirittura trasparenti. Veramente io sono per metà scozzese, osservò Mark strofinandomi il naso col dito. E se ne andò. Capitolo 16. La casa della saggezza. Settembre 1949. Non so che mi stia accadendo, disse Mark. Vibro con estrema facilità e sembro oscillare internamente, come se fossi a bordo di una nave. Tutto è diventato per me straordinariamente vivido e intenso. Una battuta di musica, una riga di poesia, il colore dei fiori. L'infinita mutevolezza del mare. Rido e piango al tempo stesso, venendo a raggiungerti in autobus. Mentre leggevo il sonetto, coloro che hanno il potere di fare del male e non lo fanno, mi scorrevano le lacrime lungo le guance. Una signora cinese che mi sedeva di fronte mi batté gentilmente sulla mano per confortarmi. Quando sono stato con te, mi sento sazio di felicità. Tutto è più semplice, eppure sento di avere molte più cose da dire. Ricordo che quando tornai dall'Indocina e dall'India, dopo aver visto cose atroci, Mi chiesero di raccontare cosa fosse veramente accaduto. Oh, nulla di speciale, risposi. I miei colleghi si irritarono molto con me, ma effettivamente non avevo molto da dire. Ora invece, se passo qualche ora lontano da te, ho tante cose da dirti che ti scrivo una lettera un'ora prima di venire a raggiungerti e la porto con me. Non avrei mai immaginato che si potesse essere così vivi. E a me? Che sta accadendo? Replicai. Sono come un seme che germoglia, che butta le sue radici, con lo stelo che si apre la sua strada verso la luce e la vita. Ogni istante è tanto bello da far quasi male. Leggo i libri taoisti e le poesie di Li Po, e le parole perfette, le magiche sentenze mi fanno venire la pelle d'oca. Il solo vedere una lucertola che attraversa il sentiero mi dà un dolore al petto. Odo e odoro il sole. E quanto alla luna, alla cui presenza sono sempre stata particolarmente sensibile, la gioia che mi procura è quasi insopportabile. Non sapevo che fosse possibile sentire la vita con tanta intensità. Sedevamo sopra una grande pietra piatta nel sentiero sovrastante il cimitero. Era il solo luogo in tutta Hong Kong in cui potessimo incontrarci in pace, per imparare a conoscerci, per imparare cosa fosse l'amore, per imparare ad amare. Poiché l'amore non si compie al momento in cui nasce, è una pianta che cresce lentamente come tutte le cose vive che sempre mutano e si evolvono. Così lasciavamo che il nostro amore crescesse tranquillamente ed ogni giorno imparavamo ad amarci meglio. Ma la bianca pietra, posta in mezzo al sentiero sopra il cimitero, non doveva essere la nostra unica casa. In quei primi giorni, principianti in amore e abbastanza sciocchi da parlare dell'avvenire, eravamo talvolta preoccupati e tristi. Non riuscii mai a scacciare completamente il presentimento dell'insuccesso, la convinzione della nostra inevitabile condanna, e ciò, sebbene non potessi prevedere come si sarebbero svolte le cose, e sebbene la passione mi accecasse al punto da farmi dubitare della mia propria diffidenza. Lo scoraggiamento di Mark era invece dovuto a ragioni più precise. A prescindere dagli ostacoli che dovremo superare per poter passare la vita insieme, ci sono tante piccole difficoltà pratiche che finiscono col rendere quasi comica la nostra relazione. Non ci sono nemmeno concessi pochi minuti al giorno insieme. Non mi piace venire nella tua camera perché ti metterei in una posizione falsa e d'altra parte non puoi lasciare quella specie di prigione in cui vivi e lavori. La domenica e il mercoledì sera ti vedo con gli amici e spesso con tua figlia, e sebbene io sia felice anche solo vedendoti, vorrei poterti stringere la mano e parlarti per tutto il tempo. Avevi ragione quando dicesti che non c'era posto per noi a Hong Kong. L'avevo accompagnato dall'ospedale dopo una delle sue visite tanto deprimenti e quasi umilianti per lui. Mi aveva atteso nella sala dei medici assistenti che avevano la residenza all'ospedale. Alcuni stavano sdraiati in pigiama nelle poltrone, leggendo fumetti umoristici, altri entravano e uscivano reggendo provette di vetro. Altri ancora gridavano amichevolmente, poiché i cinesi, i malesi, come quasi tutti i meridionali, parlano sempre come se stessero litigando. Mark sapeva benissimo che, nel complesso, i cinesi sono ancora più snob ed esclusivisti degli inglesi stessi e si rendeva conto che la sua presenza in quella sala non poteva mancare di sollevare qualche commento. Quando usciamo insieme, io straniero e tu cinese, ed entrambi piuttosto conosciuti, diceva Mark, mi rendo conto di danneggiare la tua carriera. Ma sei tu che tutti guardano. E la mia carriera non mi preoccupa affatto. Sono così fiera di te che vorrei salire sul tetto della Hong Kong e Shanghai Bank per gridare: Guardatemi! Io sono la donna che Mark Elliott dice di amare. E ridemmo entrambi, con l'esuberanza che ci veniva dalla gioia di essere insieme. Un'automobile enorme, ultimo modello, luccicante e mostruosa, ci passò accanto e in essa scorsi le sembianze aquiline di Mrs. Palmer Jones, che ci lanciò un'occhiata scrutatrice, senza sorridere. Sulle verande a terrazze dell'ospedale, appoggiate alla balaustra, al pari di passeri su di un filo telefonico, alcuni pazienti prendevano il sole. Due infermiere passarono guardandoci con curiosità. Tutti ci guardavano, anche le isole del mare, e tuttavia non avevamo la forza di lasciarci. Fu allora che ebbi un'ispirazione. Potremmo trovarci all'obitorio, proposi. È l'unico posto dove ci sarà possibile essere soli. L'obitorio, una piccola costruzione di cemento ombreggiata da bambù e protetta dalla sottostante Pock Fulham Road da una siepe di bisco, sorgeva a circa 200 metri dall'ospedale. Essendo a un livello più basso del sentiero, bisognava scendere 15 gradini per raggiungere la porta e altri 20 gradini portavano alla strada sottostante. Era su questi ultimi che i parenti del morto sedevano al sole in attesa del corpo che il mio amico John Tam, ritornato alla patologia, stava esaminando dietro la porta chiusa. I parenti bruciavano bastoncini d'incenso e rotolini di carta, lamentandosi ad alta voce, mentre un monaco batteva i cimbali e suonava il flauto. Infine, la porta si apriva e il cadavere, rivestito di tutto punto, veniva restituito alla famiglia nella bara aperta. Dall'obitorio il sentiero risaliva il pendio, allargandosi in una stradicciola selciata con grosse pietre. Era chiamato il sentiero degli amanti, ma non ho mai potuto spiegarmi la ragione di tale appellativo, dato che all'infuori delle coppie di uccellini e di farfalle che lo frequentavano assiduamente, noi due eravamo i soli esseri umani che ci mettessero mai piede. Serpeggiando per la collina, il sentiero degli amanti continuava per altre 2 miglia, fino ai serbatoi dell'acqua sopra l'università, e fu all'inizio di questo sentiero, sopra l'obitorio, che trovammo la nostra pietra. Mark la tastò con la mano e vi ci si sedette sopra e così divenne nostra. Ogni sera, ora, Mark risaliva i gradini dalla Pock Fulham Road mentre io scendevo quelli dall'ospedale e ci incontravamo la nostra pietra sul sentiero degli amanti. Udivamo le autoambulanze sfrecciare per la strada. Non era certo comodo per Mark, che non poteva arrivarci con la Morris ed era costretto a coprire a piedi molti chilometri che lo separavano dal suo albergo, dato che non mi permetteva di chiamargli un taxi. Ma il tempo era splendido e c'era possibile vederci ogni sera, strappando brevi istanti al sonno fra la mezzanotte e le 3. Potevamo parlarci e tenerci per mano, guardando le galassie dei pescatori che rastrellavano il mare e il fiume del paradiso che ammainava le sue vele innumerevoli e meravigliose sopra la nostra testa. Spesso la luna era con noi, compagna affabile che riverberava il suo chiarore azzurrino sui nostri volti e sulle pietre del cimitero cinese di fronte all'ospedale. Quasi ogni notte potevamo vederci, almeno per qualche minuto, cercando di calmare la nostra avidità in un appassionato riserbo, parlando a bassa voce o anche tacendo. Mark mi stringeva il mignolo della destra e imparavamo a conoscerci. L'obitorio era un buon posto per trovarci. La casa della saggezza, la chiamammo, secondo la definizione del nostro amico John Tam. Mark e John si erano incontrati grazie ai pesci dorati. Mark li aveva guardati attentamente attraverso il vetro della vasca e aveva sorriso, il suo bel sorriso, di fronte a quei fiori viventi ed elaborati, fragili e sontuosi, sospesi nell'acqua fra le alghe. In un attimo era sorto fra Mark e John Tam quel sentimento delicato e sicuro che io, semplice donna, ho sempre tanto apprezzato negli uomini. Benché giovane, John Tam conosceva i suoi simili per istinto e non concedeva a tutti la sua amicizia. Nei giorni che seguirono, venne a trovarmi parecchie volte, catapultandosi per gli ampi finestroni sempre aperti che rendevano tutte le nostre camere comunicanti attraverso la veranda comune, togliendoci ogni illusione di intimità. Simpatico, quell'Elliot, mi diceva. È un uomo sul serio e non si dà nemmeno arie, benché abiti a Singapore. Il malese Tam non aveva simpatia per i bianchi che aveva conosciuto al suo paese e giudicava maleducati e scostanti gli inglesi delle colonie. Lui è diverso, è civile. Peccato che debba abitare a Singapore per ragioni di lavoro e girare l'Asia in lungo e in largo. Mi dicono che in Inghilterra la gente sia più educata di quella che mandano nelle colonie. Elliot mi sembra a posto e lo rispetto. Credete che gli piacerebbe vedere le mie fotografie colorate di fegati con cirrosi e i miei esemplari? Ho due fratellini siamesi in formalina che sono una cannonata. John la chiama la casa della saggezza perché nella morte non può esistere menzogna, disse a Mark. Nell'insignificante costruzione che è l'obitorio, l'orgoglio si spegne, l'umiltà trionfa. L'oscurità diventa luce. La verità si rivela e i nostri più arroganti diagnostici si battono il petto e mordono la polvere. Che orribile descrizione! Esclamò Mark. Nessuno veniva mai a disturbarci. I cinesi, le cui abitazioni sorgevano vicino all'obitorio, stavano alla larga e i loro servi avevano paura dei fantasmi. I quartieri degli europei erano lontani. Dalla nostra pietra assistevamo talvolta al trasporto di un cadavere dall'ospedale alla cella frigorifera dove veniva lasciato gelare in pace in attesa del mattino e del bisturi di John Tam. Portato da tre coolies su di una barella coperta da un telo e seguito da una piccola infermiera in cuffia bianca simile a una colomba dalle ali spiegate, il morto avanzava rapidamente verso di noi, poiché di notte i portatori corrono sempre. Forse avevano davvero paura, o forse si suggestionavano volutamente, perché ogni essere umano si compiace del lieve brivido della paura. Udivamo l'ansimare degli uomini che scendevano i gradini, il rumore della chiave nella toppa, il fragore delle porte scorrevoli della cella frigorifera, il cupo tonfo del corpo che raggiungeva i suoi gelidi compagni, le rumorose esclamazioni di sollievo, lo scalpiccio che si allontanava rapidamente, poi era nuovamente silenzio e non si udiva altro che il ronzio dell'impianto frigorifero, il gracidare dei rospi e il canto dei grilli notturni. Nessun essere umano ci disturbava. Così fu accanto alla casa della saggezza, accanto a quei morti sereni e tranquilli che Mark ed io ci scoprimmo a vicenda e incominciammo a vivere. Fu su quella pietra che le ombre che tanto mi avevano atterrita mi lasciarono per sempre, seduta accanto a lui, traboccante di tenerezza, cosciente della sua passione e del suo riserbo e gioiosamente sottomessa. I miei timori svanirono, si dissolsero nella luce lunare, si dispersero nella notte. Il mio povero spirito, disseccato e inaridito, riprese a respirare e ad espandersi, simile a quelle pallottoline di carta che i bimbi gettano nell'acqua e che si aprono miracolosamente rivelando una fioritura multicolore. Fu Mark a rendermi viva. Chi mai vorrebbe ritornare a essere morto dopo aver saputo quello che significa essere vivo? Diceva Mark. Chi, avendo visto la vita, non ne rimarrebbe incantato per sempre? Io gli baciavo la mano, finalmente umile, mite perché non avevo più paura e serena perché avevo accettato me stessa. Il tempo e lo spazio non esistevano più, non c'era che il cielo che ci sovrastava, il lieve alito della brezza, la luce lunare e la nostra pietra. Di altro non avevamo bisogno perché già ci sentivamo traboccare. Non si trattava di dormire o di vegliare, ma semplicemente di essere vivi.